aspetta che la vita non ti aspetta. Guardami soffrire, quella lacrima non muore. Verrà di fretta in quel momento dove conterà le ore. Ancora prove di rancore per persone che son sole. Vedo il sole ma qui piove, in più non sento il suo calore. Calo solo e dico no, ogni volta qua non cedono. Chiedo aiuto per la svolta, loro svoltano e non chiedono. Alla fine non ferisce, ma st'angoscia non finisce. Chi può insiste poi sparisce, chi sta dietro poi capisce. Si stringe la mandibola, si costringe a non pensare. Che chi pensa non pensare a volte è prima di imparare. Si truccano le idee, convinti d'essere migliori. Si sta bene con i vinti, ma valgo più coi vincitori. Tengo regole entre dita di tale sfida che dipingi. Con la guida di Filippo, il codice da Vinci. Sono stati d'emergenza, per ragioni di coscienza. La gente non ci pensa, non piange. Sento brividi in frequenza, discariche in violenza. Non piangere perché qua ti fotte l'apparenza. La gente non ci pensa, la gente non ci pensa. È solo dipendenza e non devi piangere. Stai pure chiuso in stanza, ma non piangere. Scritture e manoscritti scritti sulla scrivania. Ho scritto pagine di vita tra pratica e teoria. La gente mia in palio la posta, sa quanto costa. Gettonati tra i gettoni, rotazione sulla giostra. Murder, carousel, spilli sulle bambole. Ti ridagli e se non vadi cadi nelle loro trappole. Chiacchiere, vivo l'opposto dell'essenza. Se la gente dice sempre il contrario di ciò che pensa. Eh già, non siamo nell'Olimpo rosa qua, come Olinda rosa. Chi fuma fa strage di erba, merda. A volte piangi di nascosto. Chi ti chiede come va rispondi sempre tutto a posto. La vita è il sottocosto, tu vagli sotto piuttosto. Non conosci questo posto, piuttosto parla del tuo io. Vengo dal buio, ho testato il mio carattere. Perché rimane negli sguardi ed occhi aperti per non piangere. Sono stati d'emergenza per ragioni di coscienza. La gente non ci pensa, non piange. Sento brividi in frequenza, discariche in violenza. Non piangere perché qua ti fotte l'apparenza. La gente non ci pensa, la gente non ci pensa. È solo dipendenza e non devi piangere. Stai pure chiuso in stanza, ma non piangere.